Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, questi dei 5 Stelle insistono con sto boia, eh. Quello di ieri, Soriano, è stato indagato per vilipendio, non so che cosa. Patetico, ridicolo. Al capo dello Stato. Ma no, ma vilipendio che... al capo dello Stato. Ma che c'entra, dai, su vilipendio al capo dello Stato per aver detto boia, perché taglia la voce all'opposizione, dai, su. Sì. Dai, ma smettiamola in tribunale per una cosa del genere. Sì. Sei veramente antidemocratico, guarda. Antidemocratico. Ma perché tu con le leggi, perché tu della carta costituzionale la prendi e te la fumi? Perché? Non pronuncia la parola fumare oggi, perché hai assistito a una scena incredibile alla Camera, ne parleremo più avanti. Il mio commento è una scena di libertà, però poi ve ne parleremo. Un deputato, Daniele Farina, di Sinistra Ecologia e Libertà, si è fumato uno spinello alla Camera davanti a Parenzo. Forse Parenzo nella zona fumatori. Ti sei fatto un tiro? No, perché ora di pranzo io non fumo mai. A proposito di boia, Tofalo, un altro dei 5 Stelle, ha detto boia chi molla. Beh, credevo di aver detto un'altra cosa, in realtà vedendo il resoconto stenografico ho pensato, ma non ho detto una cosa, la volevo aggiungere adesso, boia chi molla, Presidente Boldrini, boia chi molla, e noi non molleremo fino alla fine, grazie. Perfetto, la ringrazio. Come semplice diventare. Beh, boia chi molla, Tofalo dovrebbe saperlo, è chiaramente una... veniva usato dal fronte della gioventù, insomma. Boia chi molla è il grido di battaglia, dicevano i fascisti degli anni 70. Sì, vabbè, ma giocava, scherzava il signor Tofalo. Sì, ma va bene tutto, certo, benissimo. Dai, su, giocava. Ma scherzava Tofalo. Ma scherzava, ma era la zanzara. No, non era la zanzara, era il Parlamento. Ma che vuoi fare? Lo vuoi mettere in galera per questo? Perché dice boia chi molla, non molleremo alla Camera la Boldrini. Ma si può fare tutto allora? Ma sì, ragazzi, ma ne abbiamo viste di tutti i colori. Nella Crucianilandia si può fare qualunque cosa. Guarda, il vilipendio al capo dello Stato, per tornare a una cosa seria, non la boia chi molla di Tofalo, che è una stronzata. Il vilipendio al capo dello Stato è una roba ridicola, un retaggio antico da eliminare. Quindi da abolire il reato di vilipendio. Assolutamente da abolire. E fino a quando c'è? Ma lascia perdere, chi se ne frega. Sulla legge elettorale è stato raggiunto un accordo. A me non piace per niente, devo dirtelo subito, eh. Non che la cosa interessi ai manovratori, La nuova costituzionalista Boschi, Maria Elena Boschi, raggiunto l'accordo. Come costituzionalista? Beh, se ne occupa. Finalmente siamo riusciti a trovare un accordo con tutti i partiti che hanno sottoscritto con il PD questa nuova legge elettorale. È un accordo che migliora già il testo iniziale, quindi grande soddisfazione. Il grande compromesso, il 4,5% la soglia di sbarramento, il 37% per il premio di maggioranza, un contentino alla Lega che potrebbe riuscire a ottenere dei deputati in Parlamento perché valgono, no, i voti presi territorialmente. Alla fine, secondo me, diventa un pastrocchio, eh? Questa è la mia impressione. Oh, c'è il ministro della difesa Mauro che dice che questa legge centrista, Mauro, è stata fatta per far fuori Grillo. Ma no, però, caro Mauro, viene fatta una legge nel tentativo anche di portare a una certa governabilità col premio di maggioranza. Certo, certo, se Grillo non vuole mai governare, certo che è contro Grillo, per forza. Una legge che assicura la governabilità è contro Grillo, il quale infatti vuole proporzionale. Questa legge elettorale è un'incognita per una ragione semplicissima. Non è vero che è una legge contro i piccoli partiti. Questa è una legge impostata contro un grande partito che oggi rappresenta l'impostazione tripolare del nostro paese. È una legge nata per fare fuori Grillo. Questo è il vero problema di questa legge. Scusate. Come semplice proposito di Grillo, andiamo a ripescare una cosa del 23 di gennaio che è venuta fuori adesso, è un audio. Le persone licenziate dalle aziende devono essere usate per... Senti questa roba qua di Grillo. Non abbiamo la protezione del territorio, nessuno pulisce più i tombini, dovremo vedere innanzitutto tutta la disciplina delle acque, le fognature, il trattamento acque dalle fogne, piove in mezz'ora quello che pioveva in sei mesi, dobbiamo riprogettare e proteggere il territorio. Loro ci sono già sul territorio, magari si potrebbero impiegare in un altro modo, però mi riferisco a questo, si licenzia, si chiude un'azienda, l'azienda va chiusa, si devono salvare le persone. In Danimarca scaldano le case con il calore delle fogne. Questa è roba per te, Parenzo. Lo fanno ovunque. Quindi l'energia, non grandi impianti, micro impianti. Ma io non vi devo insegnare niente a voi tedeschi, a voi olandesi, a voi danesi. Ho copiato da voi, è 20 anni che giro a vedere come vi riscaldate le case in Danimarca con il calore delle foglie. Io sono andato al Wuppertalisi per vedere come... Com'è che fanno in Danimarca, Parenzo? Ma è un cretino, sei. Ma in Svezia usano ad esempio il muco del naso, quando sei raffreddato per scaldarsi. Il muco del naso, dai. Il muco del naso. L'altro giorno ero a casa con mia moglie, ho messo una molletta per fargli uscire tutto il muco, è uscito anche il sangue, l'abbiamo usato per scaldarci. In Svezia lo fanno. Ma sei un cretino, ma lo fanno ovunque. Usano anche i peti in Germania. I peti per scaldarsi. È la nuova energia, cretino. Grillo, stia zitto. Tu sei con Scaroni, sei. No, sei no. Come Scaroni, ma tu. No, assolutamente. Non lo sa, Scaroni. Ma è con noi Lazzaro. Claudio Scaiola, buonasera. Come Lazzaro? Buonasera a voi. Resurrezio. Stavo seguendo con interesse i nuovi sistemi di riscaldamento ecologici. Beh, li può applicare anche lei a Imperia, se vuole, nella sua casa Imperia. Sì, anche perché noi abbiamo qui, molto vicino, i fagioli migliori del mondo, che sono i fagioli di Conio. Bravo Scaiola, è chiaro. Scaiola 5 stelle, dai. Ma insomma, tra l'altro Scaiola... Scaiola lo fanno. No, una cosa è, Scaiola lo fanno. Sento una cosa, ma Lazzaro le piace come... Come soprannome? Guardi, per primo me l'ha detto il mio vescovo per incoraggiarmi 2 anni fa. Mi ha detto: guarda che tu batti Lazzaro. Come resurrezione. Ma ci si ritrova in questa definizione o no? Un po' sì. No, perché sa, io sono un cattolico osservante, fervente, praticante. Sì. Purtroppo sono peccatore, ma insomma, capisce. Quante volte va a messa lei? Tutte le domeniche. Comunque una volta a settimana, non è proprio una volta al giorno. No. Non sono come Andreotti, perché insomma, però sono i tempi nuovi. Ma e allora, se non è Lazzaro, si sente magari come un gatto, uno che sopravvive, no, a tutte le sette? Guardi, questo sì, anche perché ho la passione per i gatti io. Ah, mi sento un gatto, uno e che... c'ero anche uno vicino a me adesso mentre parlo con lei. Ma ci ha passato gli ultimi anni, numero di vita. Gli ultimi anni mi sa che no, c'è stato parecchio questo gatto. No? Sì. Comunque si sente come un gatto, questo mi capisce, poi non disturba. No. Ma chiederà un risarcimento ai magistrati che l'hanno indagata o no? Ma guarda, a parte io non sono un uomo mai di vendette. E poi sa, qui non c'entravo niente, però un po' di peccati da scontare ce l'avrò pure, quindi perché andare a chiedere i danni agli altri? No. Senta, ma qualcuno mi dice che le si potrebbe attribuire anche un soprannome di Ercolino, o no? No, Ercolino forse no, perché sono minuto. È vero che Ercolino sta sempre in piedi, quello sì. Quello in questo sì. Senso direi di sì. Bene, dunque, gatto ed Ercolino. Sì. Vabbè, comunque, io dico una cosa. Oggi lei mi sembra... Cioè, è cambiato il mondo per lei, davvero? Si è messo a piangere? O no? Non sul momento, guardi, magari dopo. Quello lì è un sentimento su cui non riesco a scherzare, perché quando uno... gli viene la commozione in qualche misura, mi è venuto in tribunale, guardi, ma se ne sono accorti, poi qualcuno ha scritto è scoppiato in lacrime, no, perché anche lì sono abbastanza contenuto, però è vero che mi sono commosso in tribunale, prima quando mi ha fatto l'arringa meravigliosa il mio avvocato Perroni, perché ha detto che prima di essere un suo cliente io sono diventato un suo amico. E sta cosa mi ha fatto commuovere. Poi la sentenza mi ha fatto commuovere, ma non so se era una commozione di contentezza del momento o se era invece di rabbia per quello che avevo subito. Senta, che cosa vuole rispondere a chi, come, che ne so, Travaglio dice che lei deve ancora spiegare dove sono andati a finire tutti quei soldi dati che Travaglio vive e la mattina si alza dicendo oggi contro chi posso parlare, poi dopo passano 5 minuti e dice ma forse non ho ancora abbastanza parlato male di quello lì, poi va avanti e dice ma oggi chi posso uccidere, poi dopo se viene una sentenza che assolve qualcuno gli dispiace moltissimo perché li vorrebbe tutti condannati in prigione, forse anche condannati a morte, dice lei. Eh sì, perché purtroppo nasce, non so se cioè, è un problema di gastrite, perché mi dà anche l'impressione che sia un gastritico, cioè si alza già incazzato, capito? Ma vive di odi, cioè senza l'odio non viverebbe. Guardi, l'impressione che ho è questa, perché se noi adesso non rispettiamo neanche più le sentenze, ma allora la giustizia chi la deve fare? Devo dire la verità, anche Feltri, per esempio, e il giornale, in qualche modo, quando uscì fuori la storia, la attaccarono. Molto. Cioè, non fu protetto anche dalla stampa cosiddetta amica, se lo ricorda? Quella ha qualche rancore da questo punto di vista. Le faccio una confessione pubblica. Sì. Ho visto con piacere che sul Foglio di ieri, in prima pagina, poi con l'articolo rinviato in pagina interna, Ferrara le ha chiesto Ferrara scusa. Ferrara dice, dobbiamo chiedere scusa a Scajola. A me ha fatto piacere, non perché abbia bisogno di scuse, però mi ha fatto piacere. Però sa cosa ho pensato subito? Che chi avrebbe dovuto dire voglio chiedere scusa a Scajola è Porro, il vice direttore del giornale, Nicola Porro. Perché? Perché lui mi intervistò il 30 di aprile del 2010. Sì. E mi fece un'intervista lunga e dissi tutte le cose che sapevo, le stesse che sono uscite fuori con la sentenza adesso. E poi cosa ha fatto invece? Il pomeriggio sul suo blog ha scritto non credo a nulla di quello che ha detto Scajola. Ma non me l'ha detto durante l'intervista, per cui mi avrebbe potuto dire non credo a questo, io avrei potuto provare a spiegare. Sì, sì. Lo scrisse il giorno dopo sul suo blog. Una cosa vile, secondo lei? Ecco, allora io volevo scrivergli un bigliettino a Nicola Porro, ma senza rancore, le assicuro. Sì. E quando mi hai intervistato non mi hai creduto. Non me l'hai detto prima, ma lo hai scritto dopo sul tuo blog il giorno dopo. Sì. E forse spero e mi auguro che avendo visto la sentenza, visto che mi ha creduto un tribunale dopo un lungo processo, sei tu forse che dovresti chiedermi scusa. E voglio subito chiedere una cosa, ma lei si sarebbe mai comportato come si è comportato Alfano con Berlusconi? Cioè, ha voltato le spalle al presidente? Mi dica la verità, si sarebbe mai comportato così? Guardi, io sono dell'avviso che quando uno è eletto in Parlamento è eletto in una lista. La lista dove siamo stati eletti, Alfano, io per tante volte, è il PDL. Si chiama Berlusconi nel simbolo. Sì. Io posso anche cambiare idea, posso decidere di non essere più berlusconiano, ma allora mi dimetto da parlamentare e faccio un partito. Non posso andare via con altri parlamentari dopo essere stati eletti con quel mandato, con Berlusconi e per quel programma, contro il governo delle sinistre e andarmene invece da un'altra parte, non solo non andandomene via da deputato, ma rimanendo anche ministro della Repubblica. Questo non lo fa nessuno, non però. Lo definisce un traditore o peggio? Guardi, il termine traditore non mi piace, direi la cosa più semplice. Cioè? Paraculo. Lui ha avuto tutto da Berlusconi e credo non sia giusto quello che ha fatto, non è un comportamento che io approvo. Scusi un attimo, tra l'altro bisogna chiarire una cosa, in un'intervista alla stampa di questi giorni, dopo la sua assoluzione, è uscito un suo virgolettato, in realtà era il titolo, in cui lei avrebbe detto, beh io voglio un posto in prima fila o Alfano o Berlusconi è uguale. Quanti guai fate voi giornalisti, cioè perché che voi si sono inventati tutto, senza che ascoltare, senza studiare, senza studiare, parlate, quello sicuro. Sono sempre scagionati quelli con cui si parla, quindi non mi riferisco a voi due. È un modo un po' furbesco il mio di parlare. E dunque hanno sbagliato, mai con Alfano, lei non andrà allora, mai. Allora, ma uno prima di scrivere di Scajola dovrà dire cosa diceva Scajola settimana scorsa, cosa diceva un mese fa, cosa diceva due mesi fa. Io sono quello che mi sono alzato in comitato di presidenza a dire che non era ammissibile fare una scissione. Che non si poteva, quelle cose che ho detto prima. Per cui lei, con Alfano non andrà mai. Con Alfano non andrà mai. come fa un giornalista a scrivere una roba così, poi mi chiama e mi dice, mi scusi, sa, ma io ho scritto così perché capisce così. Ma come capisco così? Ma capisco così che cosa? Ma allora io potrei trovare, se lei mi fa un'esclusiva e mi dice anche qualcos'altro, allora io ho la scusa per tornarci sopra e cambiare quindi il discorso. Dico, guardi, è meglio che lasciamo perdere. No, tra l'altro, scusi, sembrava una cosa veramente da gran paraculo, cioè basta che qualcuno mi offre una candidatura, diciamo, come capolista, che ne so, e ma si può fare una roba così. Poi pubblicamente uno se lo dice è un cretino, insomma. Appunto. Senta, ma lei si candida al Parlamento Europeo o no? Sa cosa mi attira del Parlamento Europeo? Le preferenze. Le preferenze. Bravo, bravo. Le preferenze. Sa perché? Io sono uscito da questa vicenda con una soluzione che forse ero sicuro che sarebbe avvenuta, ma forse non in primo grado, di che arriverà in secondo. Cioè l'arrapa il fatto che la gente possa scrivere Scajola sulla scheda elettorale. Mi arrapa questo, ma sa perché mi arrapa? Perché un politico non ha bisogno solo di un proscioglimento della magistratura, ha bisogno di avere il consenso e la condivisione dei suoi elettori. Allora se uno invece che essere nominato è scelto perché c'è scritto il nome, allora potrei dire bene, la gente mi ha capito. Comunque ho usato la parola rapa, non è che ho sbagliato la... non è male. No, che magari la chiesa sa, le preghiere, ma sa, veramente, insomma, io penso che si arriverà anche presto, me lo auspico, anche magari pure è favorevole al matrimonio gay, lei no? No, sono favorevole al matrimonio dei sacerdoti, credo che sarà un passo che si dovrà veramente fare. Beh, questa è buonissima, però. Il matrimonio dei sacerdoti è buona, questa cosa. Noi dovrà pure fare. Beh, questa è buonissima. Magari anche la legalizzazione della droga. Adesso scopriamo uno Scajola pazzesco. Guardi, della droga leggera. Su questo no, però sicuramente non è possibile pensare che la legge, così come oggi, stia riempendo anche le carceri di ragazzi. Beh, già. Che... Ecco, va rivista, va comunque rivisitata. Senta, Marina Berlusconi può essere una cosa? Marina Berlusconi può essere un leader oppure non le piacciono queste cose dinastiche? Perché dinastiche? Ma Bush ha fatto padre e figlio. Kennedy stava facendo fratello e l'altro fratello. Lei dice basta essere eletti. E Clinton penso che farà la prossima volta la moglie. E Berlusconi non può fare la figlia. Ma pure le suore si possono sposare? Adesso mi ha rapato questa cosa qua. Pure le suore, secondo lei, si possono sposare? No, alle suore però farei dare la comunione e farei dir messa. Beh, ma siamo alla rivoluzione più assoluta qua, Questi tre anni e mezzo di riflessione mi hanno modernizzato. Mi sono visto alla televisione a Porta a Porta, sembravo più giovane ieri che quattro anni fa. Senta, qual è la cosa peggiore che ha pensato in questi tre anni e mezzo? Sicuramente non il suicidio, perché non è il caso, insomma. No. La cosa peggiore che ha pensato, convinto di essere dalla parte della ragione. La cosa peggiore in assoluto qual è? La cosa proprio la cosa peggiore che dice, vabbè, scaccio questo pensiero. Ma gliela so dire, io perché non riesco a pensare cosa. Comunque, lei che ha raccolto, che ha raccolto così tanti voti per altre persone al Parlamento Europeo la volta scorsa, magari stavolta sono gli altri a doverle portare un po' di voti, lo dico io così. Sperando di avere un po' di amici, perché come lei sa, insomma, gli amici si volatilizzano facilmente. A presto, grazie. Oh, tra l'altro Grillo vuole dire basta a grattacieli e ponti, Parenzo. Basta a grattacieli e ponti, ti assicuro. Ai grattacieli. Basta a grattacieli e ponti. Senti un attimo, senti, ti giuro, senti, basta a grattacieli e ponti. Bisogna vedere la mobilità in generale, come si sposta la gente. Non l'automobile da 2 tonnellate, che sono concetti di 7 anni fa, di 10 anni fa. Non fai più grattacieli, cemento, ponti, grandi lavori da 20 miliardi che non abbiamo neanche gli occhi per piangere. Il corridoio 5 che non esiste. Far viaggiare una mozzarella a 300 all'ora. Andate a vedere i dati. Comunque, ragazzi, io devo dire la verità, a me i grattacieli e i ponti mi piacciono, a me piacciono da morire. Beh, sì, sia i grattacieli che i ponti, poi voi fate come pare, bisogna vedere che ponti naturalmente, ma a me grattacieli e ponti mi piacciono. Ma consumano tantissimo, è meglio la caverna non ha spese. Oh, Salvini ha detto una delle sue, tutti gli italiani hanno pagato la Fiat per generazioni e adesso vanno all'estero, e tanti saluti, uno Stato serio dovrebbe chiedere indietro i soldi regalati, dai su però Salvini, dai, i soldi, la Fiat fa quello che vuole, che c'entrano i soldi dati prima dallo Stato, cosa c'entrano i soldi dati prima dallo Stato? Lui dice una cosa che hanno detto in tanti, cioè che è un'azienda cosa? Che... privatizzava, com'era, vanno no? Ad Amsterdam, fanno quello che vogliono, è una non multinazionale solo, e la sede finanziaria magari la portano a Londra invece. Si fanno poche canne, magari si faranno un po' più di canne ad Amsterdam e riescono a fare macchine. No. Però hai capito dove mettono la residenza fiscale invece? A Londra, ma fanno benissimo, una multinazionale, ma che devono fare? Che c'entrano i soldi presi dallo Stato prima? Fanno benissimo. Hanno avuto anche un colpo di genio sulla nuova sigla, La sai quella nuova sigla, sì. Fiat Chrysler Automobiles. Sì, sembra un nuovo centrodestra, i colori sono quelli. FCA. Vabbè, lasciamo perdere. Di nuovo sì, ma lascia perdere i colori, tu non hai capito niente. FCA. Sì. Ma è da tutto il giorno che sulla rete si è scatenato l'inferno su sta roba. Ho visto. Basta una I. Non capisci un cazzo. Questa è Pannella. Basta una I. Ed è fica. Ed è fica. FCA. Deve sempre esplicitare tutto. Ma non è che mai. Non fa allusioni. Fra poco gli aggiornamenti sulla canna fumata oggi in Parlamento davanti a David Parenzo, foto diffusa dalla Zanzara dal deputato Lisel Farina, sì. Sapremo tutto. Sì. Titoli del TG3. Ma lo dici con scandalo, lo dici. No, ma quasi. Che scandalo? Io sono favorevolissimo. Ecco. Ecco, titoli del TG3, poi ancora con noi Claudio Scajola. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Intesa Renzi Berlusconi sulla legge elettorale, il sindaco mai più larghe intese, ricatti dei piccoli partiti, la minoranza PD restano nodi da cambiare. Nell'accordo la soglia per il premio al 37%, lo sbarramento per i partiti coalizzati al 4,5%, c'è anche il Salvalega. Alla Camera l'ostruzionismo 5 Stelle sul decreto IMU Banca Italia, si rischia di pagare la seconda rata e continua via web l'attacco a Napolitano, Letta bene la riforma sul sistema di voto e subito dopo il patto di governo, questo è l'anno della ripresa, Barroso l'Italia ancora fragile. Addio alla Fiat, nasce Fiat Chrysler Automobiles, sede in Olanda, residenza fiscale a Londra, le incognite sul futuro degli stabilimenti, Electrolux primo incontro per salvare gli stabilimenti, Zanonato il piano dell'azienda non convince ma ha accettato di trattare. Ucraina ferma le trattative sull'amnistia, ancora scontri in piazza tra gli stessi manifestanti, al TG3 la giornalista selvaggiamente picchiata dalla polizia. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Allora, ma lo sapete che mi stanno rompendo, posso dirlo Scajola, posso dire una mezza parolaccia? Voglio chiedere a Scajola l'autorizzazione a una parolaccia, qui le diciamo ogni tanto. Non siamo ancora in fascia protetta. Forse. Per cui mi tengo, dice lei, mi tengo un po'. Mi stanno rompendo le scatole, per non dire i cicci, i coglioni. Per il fatto che non ho fatto, dice, ma siete vergognosi, vi rendete conto di quanto ma l'avete siete chiesto della casa ad esempio. Ma io, certo, a parte infatti, che l'ha già detto da Vespa l'altro giorno, ma che gli devo chiedere sempre la solita cosa che gli chiedo ogni volta? No, ma c'è solo una cosa, perché la casa basta, dal punto di vista giudiziario non esiste più, perché in primo grado l'hanno assolto, basta. Ma gli devo chiedere questa cosa, qualcuno può chiedergli della questione politica invece. Ma no, ma lascia perdere la politica, abbiamo già parlato. Ma la questione, volete che rifaccia la solita domanda perché secondo lei sono stati pagati tutti quei soldi extra per la casa eccetera? Cioè, volete che la faccia questa domanda? Scajola, vogliono che faccia questa domanda? Risponda a questa domanda, se può, per favore. Allora, evidentemente andrebbe chiesta la domanda a quelli che lo hanno fatto. Perché lei non lo sapeva. Perché io, come ha accurato il processo, ha dimostrato che io ne ero assolutamente all'oscuro. E che non ha ottenuto, non ha dato favori ad Anemone, eccetera, eccetera. Bravo, e ha appurato anche che non c'è stato nessun favore, nessun piacere. E allora, secondo lei, perché sono stati pagati questi soldi? Ma ci sono due, è ancora più difficile. Perché è stata pagata intanto così tanto? Perché tanti soldi in più, quando nel processo è emerso che il valore della casa è molto inferiore? Perché? Primo punto. Noi abbiamo chiesto, ma abbiamo verificato nel percorso delle indagini, poi dopo cos'è successo nei diversi versamenti? È stato detto di no. La seconda motivazione. Io il rapporto con questa casa l'ho avuto con una persona di prestigio allora. Balducci. Sì, di valore, di prestigio, che era stato nei diversi governi. Poi invischiato in varie cose, comunque all'epoca. Invischiato, però anche lì, attenzione. Andiamo a vedere e vedremo, perché siamo in uno stato di diritto. Ci sono anche passato e quindi mi piace dirlo, visto che ormai sono stato chiamato fuori. Uno ragiona quando una sentenza va in giudicato, se no diventa un paese barbaro. Perché può essere avvenuto? Io non credo che sia avvenuto con questa cifra, perché nessuno lo ha appurato, ma credo che probabilmente, probabilmente si è cercato di dare una mano, risolvere un problema senza far sapere in fondo per ottenere una riconoscenza che sarebbe poi forse venuta utile. Ma così tanti soldi, Scaiola? E si vede che pensavano che lei potesse dare poco. Pensavano, o contavano poco sti soldi o contavano pochi sti soldi, oppure a pensare ulteriormente male, qualche giornalista l'ha scritto, ma non è che lo penso io, qualche giornalista l'ha scritto, erano troppi sti soldi che sono stati dati per comprare di questa casa. Senta, a proposito di casa, lei ha detto che non la può più vedere, non ci va da un sacco di tempo, ha raggiunto, ha firmato un compromesso per venderla, la pagò 610.000 euro. Le posso chiedere se ci guadagnerà dalla vendita? Sì. Guardi, io da questa vendita della casa prenderò e terrò per me i soldi che ci ho messo, quelli che ci ho speso, perché ho anche dimostrato i famosi lavori che io li ho pagati, quelli che mi sono costati per tutta questa vicenda, e se mi consente ci metterò anche tutti i conti e le spese che ho fatto, i condoni, perché c'erano da fare due condoni, questa roba la tratterò, il resto sarà vincolato su un conto corrente da un notaio, fino a quando non sarà evidente e chiaro tutto questo percorso. Quindi le ho dato anche una primizia. Cioè, non ho capito, una parte di questa cifra, quei soldi, solo i soldi che ci ho messo e che ci ho speso. Sì. Il resto? Beh, dunque la venderà a quasi un milione di euro, se posso fare una cifra. Sono cosa le dico? Sai che idea mi è venuta? Fino a ieri era difficile trovare un acquirente perché non andava di moda, anzi era pericoloso forse acquistare questa casa, perché vai a sapere un processo in corso cosa poteva succedere. Sì. Può darsi che adesso diventi ambita, speriamo che sia di moda, che diventi di moda, visto che il processo mi ha scagionato. Vabbè, speriamolo. Beh, scusi, deve vendere al prezzo più alto. Ma non ha raggiunto già il compromesso per questa casa? Non ha già firmato un compromesso? Allora, io ho fatto più che un compromesso potrei chiamarlo un accordo fra le parti, non ancora definito, perché giustamente questo ultimo possibile acquirente che è venuto mi ha detto, però sa, se lei consente aspettiamo che finisca il processo. Non mi sono sentito, ma che vogliono il terzo grado, no? Vogliono non terzo... mi sono sentito di dargli torto, le pare? Ma vogliono il terzo grado, no? Perché altrimenti... Perché lei dà già per scontato che la Procura della Repubblica ricorra? No, questo è vero. In genere, questo è vero. Io spero di no. Visto lo smacco, spero di no. Vedremo. Comunque vedremo. L'accordo che ha raggiunto sarà... a parlare di questo. No, l'accordo sarà superiore ai 610.000 euro, immagino. Per forza, altrimenti... Mi auguro proprio di sì, penso proprio di sì. Sono passati 10 anni. Grazie, a presto. Salute. Grazie, a presto. Senti questo, i sindacati proteggono vecchiacci in pensione, eh? Senti. In Italia, gli operai italiani, spesso super produttivi, hanno paghe basse. Quindi la forza dei sindacati è forse quella di proteggere i vecchiacci in pensione e così via, ma gli operai non li proteggono. Beh, questa è stupenda, eh? Poi te lo ricordi quando tuonò contro le mogli dei dittatori arabi? Sì. Beh. Tutte che vanno tutte in gioielli, come no? Certo. No, con i sacchi di immondizia. Con i sacchi, sì, sì. Noi conviviamo, tutti noi, americani e europei, abbracciamo, sbaciucchiamo questi dittatori arabi, una parte che si fregiano di titoli come re, sceicco, emiro, eccetera, ma tutta gentaglia che non fanno niente, quando vengono in via Veneto con le loro mogli coperte di, come sembrano, dei sacchi di immondizia vaganti, entrano nelle gioierie e comprano questa roba, sempre perché i soldi in quei paesi vanno solo a chi non lavora. E poi l'ultima, me l'avete messa l'ultima? Sul licenziamento dei dipendenti pubblici? L'economia inglese è ripartita, giovani italiani vanno a lavorare a Londra perché hanno licenziato 500.000 di pubblici dipendenti. 500.000 hanno mandato per strada, hanno ridotto le tasse E il risultato non è che la disoccupazione britannica è aumentata di 500.000, è diminuita. Allora, i 5 Stelle hanno presentato la domanda di impeachment per il capo dello Stato. C'è veramente da ridere, eh? Cioè, c'è veramente da ridere. C'è veramente da ridere, da scompisciarsi dalle ristalle. L'impeachment per Napolitano. Ragazzi, ma bisogna veramente... Cioè, ma come cazzo gli viene in mente a questi qua? Cioè, non capisco, però. Non è che li stai difendendo ora. No, non hanno niente. Se vale l'accusa di vilipendio, nei confronti del capo dello Stato, vale anche la possibilità. E io la sostengo questa, perché secondo me c'è stato vilipendio. Tu dai del boia però parimenti ci sta il fatto che questi presentino la domanda di... Poi è una stupidaggine, ma ci sta che questi la presentino. Quella è battaglia politica. È una roba veramente da scherzi a parte. Scusa, è una roba sono ridicola, d'accordo con dai. Te, ma io non li ho votati. Chiusa ma che parentesi. C'entra? A differenza ma che c'entra? Tua. Sì, perché non ti ma puoi lamentare di chi hai mandato in Parlamento. Non ti puoi lamentare dopo. Antonio dalla provincia di Cremona. Chiamateci Grillini questa sera per sostenere l'impeachment nei confronti di Napolitano. L'impeachment, l'assassino della nazione. Quello che ha distrutto l'Italia, quello che impedisce al Parlamento di governare, quello che viola la Costituzione, quello che ha approvato leggi porcherie. Chiamateci Grillini, chiamateci. Antonio, provincia di Cremona. Antonio! Sì, pronto! E andiamo, buonasera. Che cazzo, dai! No, vi stavo ascoltando da lontano, poi ho capito. Dai, forza! Cercando. No, io volevo semplicemente dire che secondo me è una buffonata ciò che stanno facendo, indagato il parlamentare del 5 Stelle. Cioè, qui per me è una grandissima cazzata. Ma in realtà pure quelli del 5 Stelle lo sanno che è una boiata questa cosa su Napolitano. È per fare casino, è per fare... Cioè, la gente si aspetta altre cose, non l'impeachment nei confronti di Napolitano. No, lui critica... No. Mi meraviglia che quello che vuole indagarlo, quello del PD... che perdesse tempo nel votare ciò che scadrà a mezzanotte, il finanziamento a Banca Italia. Cioè, non si può svegliare per una cazzata del genere su quello che ha detto boia e stanno facendo ostruzionismo, orecchio da mercante per quello che riguarda il finanziamento a Banca Italia di 7 che miliardi e mezzo. Questo? Non c'entra niente, non c'entra nulla. Nulla, non c'entra niente. No, mi dispiace, perché questo deluderla. Questo si sveglia perché quello del Movimento 5 Stelle ha dato del boia Napolitano, però fanno gli addormentati quando si deve trattare su cose più serie. Per me è una cazzata. Ma quello per cui, che... Scusi, in che senso fanno gli addormentati? Veramente sulla questione del decreto IMU e su Banca Italia stanno facendo l'inferno alla Camera? Sì. No, quelli del Movimento 5 Stelle e Forza Italia, quelli del PD mi sa che vabbè, entra da una parte e gli esce dall'altra. Non ho capito più niente. Davide da Milano. Sì, salve Cristiani. Dica. Volevo dire solo due cose velocemente. Una su Scaloia che ci sta prendendo Scaiola. Scaiola, che li date, ricorda. Non ho capito, scusi. Esiste proprio che qualcuno regali una casa così per niente, senza nessun... Senta, io l'ho fatta quella domanda là. È stato provato che lui non ha dato favori a questi altri, eccetera. Non sa nemmeno lui perché. Lo ha anche detto. Probabilmente questi qua volevano poi da me qualche cosa. Lo hanno fatto per ringraziarselo, forse, ma non lo sappiamo. Sì, vabbè, insomma. In un paese normale questo non succede. Comunque ci sta prendendo per il culo, chiudo, non c'è niente altro da dire. Vabbè, Milena da Biella, cosa? Parlare sì. Era che siamo stanchi di sentire questi camionisti con i loro accenti pugliesi, calabresi. Ma sarà stanco lei? Perché cosa ha nei confronti dei camionisti, scusi? Queste persone così ignoranti, con quegli accenti lì che danno fastidio, mi danno veramente fastidio allo stomaco quando li sento. È una cosa che veramente... Ma scusi un attimo, ma lei come fa a dire una cosa del genere? Ma che vuol dire? A parte che questa non è una trasmissione seria, primo. Secondo, e me ne vanto pure, è una trasmissione che fa alto, basso, che spazia in tutte le classi sociali, che viene ascoltata dai manager e dai proletari, dai camionisti, e me ne vanto. Scusi, che cosa ha contro i camionisti? Lei guarda che faccio scatenare un inferno via radio, Ma che vuol dire le danno fastidio? No, ma non è che gli danno fastidio i camionisti. Sì, i camionisti le danno fastidio. Non è che gli danno, ma nessuno è così. Ma perché gli danno fastidio i camionisti? Sicuramente no, gli danno fastidio il racconto sui gay. Fallo parlare. Quello dice. Sì, certo. quei tipi di racconti sempre basati sul sesso, su questi qua che andrebbero ad adescali, eccetera. Questa gente non ha altro nella testa, purtroppo. Vive in queste fantasie assurde che si creano da soli. Io non capisco che cosa ha contro i camionisti. No, cioè, contro i camionisti, ti ha detto. No, ha contro i camionisti. No, non ha detto contro i camionisti. Sì, è contro i camionisti, fallo parlare. Vedrai. Sì, no. Cioè, sono contro i camionisti e specialmente questi camionisti con questi accenti che parlano in quel modo. Ma che sono anche gli accenti? Gli accenti sono dei racconti sui gay, quello. Oddio mio, no. E comunque. Non si può essere contro i camionisti. Gli accenti sono favolosi. Cioè, gli accenti locali e dialettali sono favolosi. Milena da Biella. Pronto, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, ma io non ho niente da dire a Scajola, però volevo far sapere ad Anemone & Company che ho una bolletta del gas, che se qualcuno mi pagasse a mia insaputa veramente sì. Mi farebbe enormemente piacere. Non ho chiamato per questo. Sì. Ieri ho sentito una signora che si chiama Rosa Maria, sì, che ha fatto una domanda su un mast a Pasqua, mi sembra. Scusatemi se sbaglio qualcosa, ma Rosa Maria. Ecco, l'unica mia informazione. Aspetti un attimo. No, se vuole gliela faccio risentire. La ringrazio, così mi carica un pochino. Come la carica? Scusi, non ho capito. Perché quello che ha detto ieri mi ha sconcertato, oggi sono un attimino più calma, quindi. Quindi? Mi fa piacere. Vabbè, un attimo. E spara su questo, e spara su quello. Mira al centro se lo prendi, vinci l'aldilà. Sinistro, destra, fa qui la festa. Porta tua sorella che non si... Andate un po' ad analizzare chi è quello che ha 25 incarichi. Guardate un po' se non è ebreo, perché io non è che ce l'abbia con gli ebrei, ma quegli ebrei che ammassano soldi, attenti, e lo parlo, dico anche per il suo amico, attenti, ci sono degli ebrei che approfittano. Io 8 ne ammazzerò, 8 ne ammazzerò, 8. Ma caro signore, ti stanno ammazzando uno a uno, ma non, ma dove vivete? Dove vivete? Dove? E seguite le istruzioni, a voi tutti i benefici, a noi. Fate qualcosa di buono, che siete due prostitute. Comunque ci divertite, vi va bene lo stesso. Poi c'è una che si chiama Lores, Lores. Che la tua carriera viaggia sulla... Faccio un appello a tutti quei disgraziati che si suicidano. Il mese scorso ne ho conosciuto uno e dopo 3 giorni non c'era più. Non fatelo per niente. Se avete deciso prima, fatene fuori 2-3. Un direttore della banca, uno dell'Equitalia, un politico. Ammazzateli e dopo ammazzatevi. Vabbè ragazzi, se c'è bisogno di qualcuno, di qualche medico, vi do l'indirizzo dopo, Lores e Rosa Maria, due totalmente fuori di testa. Ecco. Nei prossimi giorni manderemo qualcuno, Bisognosi di farmaci e di assistenza. Milena, allora? Fantastici, mi avete beccato. Questa cosa sugli ebrei, veramente. Questa signora ha detto di essere un insegnante. Sì. I miei figli ogni tanto arrivavano a casa con qualche stronzata detta dagli insegnanti. E io... Ma no, no, è stata un insegnante, credo. Ma sì. ascolti. Allora, matematica. Qui il discorso, se uno è un insegnante di matematica, era da fare. Ma questo signore cosa guadagna al mese? Qual è il netto, lordo, qual è... Questo era il... Non se è un ebreo. Cosa c'entra? Vabbè, Milena, grazie. Dove andiamo? Grazie. No, che vuole dire? Adoro Parenzo, sì, deve grazie, smetterla di dire, grazie cara, lo adoro io, grazie. Lo adoro a mio figlio, deve smetterla grazie. Di dire che è ebreo, lui è bravo. Un uomo, vabbè, grazie. Bravo. Danilo da Massa. Bravo. Dai, grazie. Su, Danilo da Massa. Buonasera, volevo dire a Parenzo intanto che è l'espressione della giornalismo italiano, cacca. In che senso? Ah, della cacca, della cacca. Che vuol non dire? Non parla di un cazzo, superficiale al massimo, sì. Non approfondisce un argomento. da solo contro i grillini. Ora poi se vogliamo parlare da contro i grillini, da solo contro i grillini. Sì, non ai suoi che ha votato fino ad oggi. Ma io che ne sa di quello che ho, ma cosa ne sa di quello che ho votato io fino ma ad oggi? Sento come cosa ne sa di quello che ho votato io fino ad oggi? Proteggi, va bene. Io alle ultime elezioni non ho neanche votato, ad esempio, e l'ho detto meno mille male, volte guarda. Qui. Meno male, ma come mai ma che cosa ne sa di cosa ho votato io? L'amico dei dell'Utri, quelli che hanno il busto di Mussolini sulla scrivania e che dicono che mangano il loro eroe. Io amico di dell'Utri? Pazzo. Lo trattavi così bene quando l'hai intervistato? Lo conosco da 15 anni, a parte che si chiama anche ironia, quando dicevo io, David Parenzo, voglio bene a dell'Utri, era divertente e ironico, ma, perché lo voglio bene, voglio voler bene a uno che ho visto 8 volte ironico. In vita mia. No, non è ironico. Cioè, lei morto. Sa che non era ironico. Ho capito. Non eri tanto ironico. Dicevi no. Che bisognava andare a prendere anche la bara. Qualcuno l'ha fatto. Ma la bara di chi? Di Priebke molto... dice. Di chi parla? Scusa. Io ero rimasto a dell'Utri. Priebke, chi se ne frega? Priebke, ho detto quello che ho detto, rimane nella registrazione, no? Sulla morte di Priebke. Troppo tardi, doveva morire prima. Con referenza, ti voglio bene, vedi dell'Utri. A chi ti voglio uno bene? Che ti è venuto a dire che si mette la foto di Mangano in casa. Cioè, uno che mi ma dice lei che mi perché non capisce nulla proprio? No, ma perché te sei perché ironico? Lei purtroppo con chi vuoi ironico? Perché con lei chi non Giacomo ma no, io non sono solo io, sono la stessa persona. Sono sulla vicenda Priebke, quello tutti, che dovevo fermi, dire l'ho detto fermi sulla tutti, vicenda Priebke. Fermi tutti, fermi. Ci vorrebbe un po' di marijuana, un po' di cannabis, ci vorrebbe per presidente, assessori, eccetera, della regione Abruzzo, sì. Che sono degli scopatori pazzeschi oppure dei puttanieri indescrivibili. Il presidente conferma di aver fatto una leggerezza ospitando in un albergo di Roma una ragazza e che poi casualmente ha ottenuto un posto alla regione, ma lui non c'entra. Gli altri assessori, il presidente della giunta, ne hanno fatti di tutti i colori: alberghi, viaggi con ragazze, motel. Quell'altro che ha fatto firmare il contratto alla sua assistente per fare sesso non so quante volte al mese, 4 volte al mese. Ma che c'hanno gli ormoni in Abruzzo? Che è successo in Abruzzo? Federalismo abruzzese. Oh, grandissima prova oggi di Daniele Farina. Ti sella la Camera dei Deputati. Lo ha fatto in una zona che non era una zona, come dire, proibita, una zona no. Per fumatori, vicino una zona al transatlantico. Si è fumato una canna. Farina? Piccola era. Ci sono. Piccolissima. Eccoci qui, ci sono state delle reazioni pazzesche, devo dire la verità. La reazione più dura è stata di Corsaro, il signor Corsaro di Fratelli d'Italia, che ha detto: bah, che schifo, una cosa schifosa, eccetera. Perché la prossima volta non si fa uno stupro così per simboleggiare l'opposizione alla violenza sulle donne? Poi che c'entra la questione del coso, no? Che c'entra la questione dello stupro, eccetera, no? Quella evocata da Corsaro, ma... vabbè. Scusami, non c'entra assolutamente niente, questo è ovvio, Corsaro dice quel che pensa, ma non sa quello che dice, insomma. Ma com'era la cosa? Più che la canna era un razzo di soccorso quello di oggi, una chiamata di soccorso, certo. Perché abbiamo in discussione il decreto cancelliere, il decreto del governo sulle carceri, c'è un pezzettino che riguarda le droghe, i fatti e l'identità. E rischia di saltare un emendamento proposto al relatore che tornerebbe a differenziare la cannabis dagli altri stupefacenti. Un fatto simbolicamente importante, piccola cosa, ma che rischia di essere spazzato via. Era un razzo di soccorso perché stanotte ce la dovremo giocare, insomma. Per cui si rischia che resti tutto com'è, cioè che le canne siano equiparate alle altre, cioè le canne, per semplificare. Beh, senta, ma com'era questa canna? Devi fumartene un'altra stasera, Che però. C'era dentro, Farina? Un ottimo Orange Bud che consiglio a tutti in dosi ovviamente contenute. Cioè in dosi consentite dalla legge? No, non è consentito dalla legge, ma in dosi contenute. Come no? Aveva un profumo buonissimo, cioè, Cruciani, tu non capisci un cazzo di droga. Scusa, Farina, era in quantità proibite? No. Ma diciamo che il consumo personale non è punibile sotto quel profilo, penalisticamente. Appunto. Però, come dire, le sanzioni amministrative ci sono per tutti, diciamo che dobbiamo andare in un'altra direzione e mi sembra che purtroppo ci stiamo bloccando al primo passo, nonostante le dichiarazioni anche di Renzi che è sembrato aprire, ma poi alla prima prova dei fatti siamo da punto a capo. Vabbè, però bello perché nel giorno della legge elettorale, capito? Lui si fuma questo pezzettino piccolo, per la cannetta piccola peraltro, non era grande. Non era, sì, poi non era, mono... te ne fai. Quante te ne fai tu, Daniele? Nessuna. Nessuno, cioè non te ne facevi da quando? Da molti anni. Ma tu mi sa che ti sei fatto pure anche la cocaina nel passato? Mai. Non eri di quelli del Leoncavallo, di questi... Ma il Leoncavallo preferisce, diciamo, la cannabis, lotta per, diciamo, legalizzarla come tantissimi altri. Io personalmente preferisco una bella bottiglia di vino. Alla canna. Ma cosa sei disposto a fare Parenzo, ora, tutte oltre due, a Parenzo tutte e due? No, cosa? Vino? Ah, cosa vino, no, anche se... vino magari non mescolare cosa migliore, però... Capito, Davide? No, ma non tutte e due. Non mescolare. No, ma guarda che io da quando sono tornato da Amsterdam che non mi sono più fumato la canna. Oggi ad esempio no, perché era un'ora di pranzo e quindi non mi sono... Vabbè, comunque cos'è tutto questo scandalo? È stata una provocazione per dire che le droghe leggere non possono equiparare alle droghe pesanti. Nessuno la gente scandalo. Si scandalizza. Alla Camera, dove bisogna fare le provocazioni? A cosa? No, ma poi l'ha fatto della sala fumatori, non è che l'ha fatto delle... Mi sembra cosa troppo nuova, diciamo che gli radicali hanno una grande storia su questo. Sì, appunto. Poi dopo quel dibattito sulla legge elettorale una cannetta ci stava, anche questo si può dire, scusa. Beh, oggi avevamo un decreto in conversione, adesso arriva la legge elettorale, non do giudizi, è pessima, ma non do giudizi. Vabbè, ciao Daniele, a presto, ciao. Ciao. Saluti. Ciao, ciao, ciao. Giacomo da Bari, Giacomo. Pronto, buonasera. Un attimo solo, richiamatemi un attimo Farina, gli devo chiedere una cosa. Giacomo. Buonasera. Dimmi. Volevo dire al signor Parenzo, ma mi faccia capire, ironizzare su delle cose che Grillo ha detto, magari, diciamo così, che non è comune in Italia cercare di utilizzare i rifiuti per creare energia. Però ironizzare mi sembra un po' assurdo. Ah, non si può. Il comico che fa del suo essere comico la sua cifra politica può mandare a quel paese chiunque, eccetera. E io non posso fare ironia su ciò che dice un comico? È questo che lei mi sta dicendo? Un comico politico? Beh, cioè, allora, Grillo non si può fare ironia. Dai, su, ma smettiamo. Ogni giorno lo dice, la mozzarella che non deve correre sui treni. Ho capito, però. Ma perché? Però mi perdoni, a me fa ma tanto non perdono. Ridere, tanta gente lei deve scaldare la sua seria, casa. Ma poi tanto seria non lo è. Tanti politici che sono così seri. Ma che c'entra questo? Questo non c'entra niente col fatto che si può fare ironia su quel che dice Grillo. Ma maggior ragione perché è un comico. Di Grillo, lui sarà per sempre un comico. Guardi, a me non me ne può fregare. No, ma chi l'ha detto questo? A me non me ne può fregare di meno della reazione dei grillini dei 5 Stelle. Io piglio per il culo chi voglio. Se Grillo fa una battuta o dice una cosa che per cui mi viene di pigliarlo per il culo, lo piglio per il culo. Me ne frego di tutte le reazioni dei grillini e degli altri. Me ne fotto. Ce ne fottiamo, è chiaro o no? Sono come zanzare, queste ombre sulla strada e cadono le ceneri della... Noi non possiamo lavorare gratis, praticamente verremo a lavorare per 700-800 euro al mese. A questo punto è meglio morire, perché noi non riusciamo a vivere. Questi rimangono qui, sfruttano ancora di più gli stabilimenti italiani fino ad arrivare a un punto che non c'è più niente da sfruttare, vanno via. Noi siamo schiavi, siamo tornati a essere schiavi. Siamo i nuovi poveri. Semplicemente questo. 30 anni di contratto spazzati via, stiamo scioperando, è inaccettabile, è una roba immonda. Ci hanno tolto la dignità dei lavoratori, la dignità dei genitori. Con che faccia andiamo a casa dai nostri figli? Io che ne ho due. Uno di 9,5, l'altro di 7,5. E quando mi chiedono, mamma, andiamo a mangiare la pizza, con cosa soldi diamo ai bambini? Che futuro diamo ai nostri figli? Con che dignità li guardiamo nella faccia? Che mi fa... Elettorale, una cosa a noi non ci interessa. Noi, il nostro compito è quello di lavorare bene sui posti di lavoro, di comportarci bene onestamente ed arrivare a fine mese. Però la parte politica che si arrangiassero tra di loro. Io queste sabbie mobili. Sono stufo di vedere ogni sera per telegiornale stare. Che cacchio ce ne frega a noi? Non è un problema degli italiani, è un problema della politica e se la gestiscano loro. Il nostro problema è un altro. Tornare a casa. amici miei, io vi capisco, però non è come ve l'hanno raccontata, che vi vogliono mettere a 700-800 euro, eh? Vi vogliono togliere 130 euro più altre cose per sopravvivere, per tenere l'impiego, per tenere il lavoro, attenzione, calma, calma, ma non cominciate a fare lavoro, sei veramente offensivo. Sei proprio offensivo, perché quando sei offensivo, però, ma che c'è da dire quel che pensi? Quel che pensi è offensivo. Intanto in questo aspetta, caso. Che alla Camera sta succedendo un casino, perché si stanno picchiando sulla questione del decreto IMU Banca Italia. Fratelli d'Italia e 5 Stelle contrarissimi non solo al provvedimento, Manganelli d'Italia, ma anche alla tagliola. È la seconda volta lì dei Manganelli d'Italia. Perché ridi? Cosa ridi? No, invece di Fratelli d'Italia. Manganelli d'Italia, che Fratelli d'Italia? Già un'altra volta era successo. Manganelli d'Italia. Vabbè, c'è gente seria là dentro, dai. C'è il nostro amico Crosetto, che è Manganelli d'Italia. Sì, ho capito. Ma Crosetto a stare con i Manganelli d'Italia, secondo te? Ma non sta in Parlamento, Crosetto. Ma ho capito, però è in Fratelli d'Italia, no? Sì, si chiama Manganelli d'Italia. Manganelli. Addirittura i 5 Stelle cantano l'inno di Mameli. E sì. Sel, gli altri? E Sel che canta Bella Ciao. Ma che cazzo c'entra una Bella Ciao? Una pazzesca. Ma colleghiamoci un attimo per sentire lì il rumore. Ma poi a me, tra l'altro, ti voglio dire, a me. Non te ne frega niente. Ma zero, ma non me ne posso. Ma c'è una cosa di cui ti frega? Sì. Soltanto quel che avviene sulle strade italiane con gli omosessuali. Solo quello. C'è l'unico tema che ti appassiona, sono le lotte politiche. Ma no, ragazzi, la questione di Banca Italia, ma sai la gente che cazzo gliene frega della questione della Banca Italia, dai. La cosiddetta privatizzazione della Banca d'Italia, dai, su. Tra l'altro, questo provvedimento che riguarda l'IMU, se non fosse stato approvato entro mezzanotte, avremmo pagato la seconda rata dell'IMU. Balla anche questa. No, balla. No, è vero, in parte. Perché si poteva fare un decreto, sì. Oh, bravo, dai, l'informazione corretta. Domani mattina alle 7 il governo avrebbe dovuto fare un nuovo decreto scorporando le cose. Quindi hai detto una balla, caro il mio 5 Stelle Cruciano. Ma veramente l'ho detto subito dopo che potevano fare un decreto. Balla, balla, balla. Oh, ragazzi, comunque sti abruzzesi trombano tutti, ma dal presidente in giù, sta giunta regionale dell'Abruzzo, hanno tutti pizzicato da qualche parte. Quello l'amica che si è portata in albergo a Roma, quell'altro il presidente non so che cosa ha fatto del consiglio regionale, si è portato in giro un sacco di gente a spese nostre, ovviamente, no? Te lo ricordi quel mitico che sparava zero contro la Merkel, quell'abruzzese? Lo vogliamo rimettere, numero uno assoluto? No, qual era? Beh, qual era? Eravamo al top, eh? Adesso lo ripeschiamo. Luigi D'Aenna. Sì, sono qua. Dimmi, Luciano, dimmi. Come stai? Tutto ecco. A posto? Beh, sì, tutto a posto, niente in ordine. Niente, io sì, ma togli quel viva voce maledetto che mi fai incazzare come una bestia, perché quel viva voce non si capisce, capito? Arriva la voce adesso va meglio, eh? Adesso va meglio, caro, sì. Ecco, ti stavo dicendo. Ti darei un bacio in bocca per quello che hai fatto. Non sei il mio tipo, comunque. Non saresti molto molto gradito. Gradito, sì. Vabbè, perché sei contro i froci. Una piccola provocazione. Perché non fai un po' di, cioè non riproponi sulla le tue affermazioni quando scoppiò il caso Scajola 3 anni fa? Sicuramente sarò stato tra quelli che l'ha attaccato, non c'è dubbio. Però questo sarebbe bello poterlo ascoltare. Sì, se lo rimettiamo, domani lo rimettiamo, te lo prometto. Come domani? Era il 2010, domani. Oh, no, il 2010, ma domani che problema c'è se lo metto domani? Scusa, non è che mi voglio. No, vabbè. Non è che mi voglio sottrarre a quella cosa là. Sicuramente. Comandi tu. Sicuramente quando lui disse, poi adesso dice di non aver detto esattamente quelle parole, pronunciò la parola a sua insaputa, la cosa diventò un tale tormentone che tutti noi eravamo convinti che una parte della casa di Scajola fu pagata a sua insaputa, era stata pagata a sua insaputa, appunto. E anche adesso in realtà. Però purtroppo, vedi Giuseppe, è questo che, cioè, l'Italia sta scadendo perché delle tragedie di questo tipo, quando poi. Tragedie, adesso non esageriamo, dai. Ma sono delle tragedie che poi diventano anche comiche. Quando in determinati programmi vengono utilizzate per poter tirare acqua a una trasmissione, cioè far leva a una trasmissione. Beh, amico mio, però la cosa, la questione della casa a sua insaputa è diventata un tormentone utilizzato da tutte le trasmissioni. Dopodiché, se dal punto di vista penale è risultato, come dire, integro Scajola in primo grado, resta una questione che lo stesso Scajola resta la sua insaputa, rimane, non c'è nessun reato, rimane la sua insaputa. Cioè, una parte della casa è stata pagata, lui non ne sapeva nulla, alle proprietarie da alcuni tizi, e nessuno è ancora riuscito a capire perché. Ecco, questo è il punto. Sì, ma io però quello che tu dovresti far ascoltare è il fatto, cioè, è il fatto che in Italia nessuno credeva che lui non potesse non essere al corrente di quello che era successo. Assolutamente, capisci? Questo è vero. Capisci, è questo il problema. Devo dirti la verità, c'è un altro elemento. In Italia, quando qualcuno viene assolto, quando qualcuno è colpevole, viene distrutto, eccetera, quando qualcuno viene assolto, poi dice sì, è stato assolto, però non c'è mai una certezza, capito? Quelli che attaccano oggi Scajola dicono però è stato assolto, sì, però poi non si è chiarito. Non c'è nessun però. Lui è assolto, è assolto. Però. Grazie però. Luigi, grazie. Giacomo da Vicenza, Giacomo. C'è la questione Ciao, politica. Buonasera a tutti. No, buonasera a tutti. Politica non c'entra più un cazzo. Volevo chiederti, Cruciano, che con i soldi degli altri, tipo gli abruzzesi, no, siamo tutti quanti trovatori. No, ma io lo dicevo per scherzo. Cioè, però è strano che dal presidente in giù, insomma, molti si sono dati da fare. Sì, ma perché c'hanno i soldi, si possono mettere certo, all'albergo. Certo, soldi nostri però, soldi pubblici. Pure i tuoi. No, Cruciano. I miei non sono soldi pubblici. Fenomeno. Comunque il mio intervento era questo: in Italia, a prescindere da tutto, siamo un branco di pecoroni, perché io ho 50 anni, ho un figlio di 25, sì, un altro figlio di 22, un ragazzo di 13. Io lavoro, l'altro mio figlio lavora, mia moglie è casalinga. Vabbè, io sono c'entra? 27 anni insieme con mia moglie, che facciamo uso di marijuana in maniera molto discreta e tranquilla. Per legge, per chi sta ascoltando. Mio figlio di 25 anni, sono circa 2 anni e anche lui fuma. Il mio figlio di 13 anni, abbiamo affrontato il problema, perché giustamente è andato a scuola e ha sentito gli amichetti, se no per qui. E la domanda non ho capito, che fate? Fumate insieme? Fumate tutti insieme, madre, padre e figlio? No. Non è una fumata. Ognuno si fa i cavoli suoi, insomma. Cioè, ma che vuol dire ognuno si fa i cavoli suoi? State a casa a mangiare a cena? Sì. Se ho voglia vado fuori al Poggione, tipo come fisco, abbiamo due parole, ci fumiamo la nostra canna, finisce là. Non è uno spettacolo. Fumate insieme una canna sul balcone, una bellissima famiglia. Sì, pare. Sì, sì. Ascolta, invece famiglia... di essere una sigaretta, una canna, appunto. Ecco, allora con mio figlio di quasi 14 anni abbiamo affrontato il problema. Ma l'ho affrontato perché non voglio che a lui a scuola gli arrivi un messaggio sbagliato di cos'è fare uso di queste sostanze. Allora lui lo vede in famiglia, un domani mi dirà: sai papà, voglio iniziare anch'io. Ma non mi dirà mi son fatto una canna, mi dirà voglio iniziare anch'io. E allora inizia un processo anche a lui. Guardi, c'è il figlio di persone che conosciamo benissimo, io e David, che è stato fermato una volta, che era minorenne, con veramente con una dose minima, ma super minima di cannabis. Sì. Dovuto passare una cosa, un'odissea infinita, doveva fare dei corsi di rieducazione, tra virgolette, doveva andare in questura, una cosa ridicola, un percorso tortuoso, complicato, di un anno, come se uno, perché viene scoperto a 17 anni con una cannetta, ma nemmeno una cannetta, una parte di una cannetta, debba essere rieducato, riportato alla normalità. È tutto ridicolo, alla base è tutto ridicolo. Nando da Perugia. Nando? Ecco, pronti, scusa, ho fatto le scale dei corsi, scusa il pietone. Allora, due volte sono intervenuto, due volte mai tagliato senza farne di nulla. Intanto Matteo Dall'Osso, un deputato dei 5 Stelle, dice che schifo, i partigiani si rivoltono nella tomba, noi non ci muoviamo dall'aula, che schifo, è guerra. Ora, va benissimo, per carità, la tagliola della discussione che è prevista dai regolamenti, per carità, è una cosa che non si dovrebbe fare, perché se uno vuole fare ostruzionismo, l'ostruzionismo è sempre esistito in Parlamento e va benissimo. Sì, l'hanno fatto, poi a un certo punto uno deve decidere, però, cari amici, cioè non è che si può andare fino all'infinito. Questi vogliono il Parlamento che non fa un cazzo, vogliono il Parlamento che decide in 6 mesi, in 7 mesi. No, a un certo punto uno fa una discussione e poi si decide. Certo, la tagliola è una cosa brutta perché sembra che lo Boldrini lo faccia contro il Movimento 5 Stelle, no? Perché c'è un po' il dente avvelenato, però adesso la guerra, si rivoltano alla tomba, i partigiani, boia chi molla, quello è un boia, l'impeachment con Napolitano, ma che è una guerra permanente, che è? Nando da Perugia, dai Nando. Sì, dunque, intanto un saluto a Parenzo, giornalista moderato che riesce a controbilanciarla, perché lei purtroppo ci fa, ma forse lo fa apposta, è una sua tecnica e tattica radiofonica, ma spara un sacco di cavolate. Vabbè, poi... L'ultima che ha... Grazie, Nando. Ma in metà, sono intervenuto due volte, se uno dice contro i suoi pensieri lo taglia subito. Ma chi? Ma l'ultima quando L'ultima cavolata mai? Che ha detto, di altri si è un po' ripreso, con l'Electrolux, no? Cioè, le sembra, secondo lei, prima cosa non era vero che la media dello stipendio era 1.400, ma era 1.200, ma forse anche stata 1.400, ma lei provi a vivere le condizioni di un operaio con quelle cifre lì. Certo. E poi a volte la sento giustamente che impreca contro le ruberie dei politici, i stipendi dei politici. Andiamo contro dei poveri operai che... Per mandare avanti stanno 8 ore alla catena di montaggio. Beh, ma che vuol dire? Bravo, bravo. Che vuol dire? Certo, no, ragazzi, ma tu non fare l'operaista ridicolo, sei ridicolo. C'entro Riva? Io ho dei valori, credo in alcune. Io ho dei valori diversi dai tuoi. Io credo che vanno rispettati i lavoratori. Ma che c'entra? E non gli si può dire, come dici tu, vabbè, con la tua faccendoleria, col vabbè, sedere al caldo, a tempo indeterminato, dire ai lavoratori che guadagnano 1.200 euro, che te frega se te ne tolgono 130, va non bene, glielo puoi, bravo, dire, allora non tu glielo il problema, puoi dire, dai, non tu sto problema. Dicendo che lo risolverò risolvi io perché non ho nessuno dai. Strumento per risolverlo, ma è non solo maleducato, ma è cattivo, bravo, bravo, cattivo, sono cattivo, cinico, sì, sono cattivo, sì, cinico, sì, sono cattivo, invece è arrivato il buono, ma non è buono, è la cattiva, non è questione di essere dai, buoni o cattivi, è questione di essere cinici e di non capire come si vive con 1.200 euro al mese meno 130. Vabbè. Meno 130, va bene, bravo, hai capito? E dopo aver urlato non, queste cose demagogiche come dall'alto risolvi? Della radio con il suo microfono on air, il sì, rosso acceso che gli dice sei in onda, vai, sì, spara la stupidaggine del giorno, sì, chi se ne frega dell'Electrolux, guadagnassero 700 questo? Euro al mese. Chi tu l'ha detto? Ieri l'hai chi detto? L'ha detto? Tu ieri io ho detto questo? Viva l'Electrolux perché viva, per far restare detto, viva la Polonia, certo, viva la Polonia, anche la Polonia, non tutta si, la vita. L'operaio italiano non può essere paragonato a quello polacco, non si può giocare al chi guadagna sempre Europa, di meno, non è Europa, hai capito? Non è Europa, pure che quella. Che c'entra? Non è come dire Europa. Senti, uno, amico mio, uno si paragona col meglio, problema, mica col peggio. La no? Tua retorica. Uno si paragonerà con la Germania, la non retorica, con la Polonia. No? La tua retorica. Ma quale retorica? In Germania, vabbè, in Germania ecco non è così, retorica, hai capito? Ecco l'operaio tedesco sì, ma noi non siamo la prende Germania, molto di più di quello italiano. Ma noi non siamo la Germania, purtroppo. E allora tu comunque, ma perché devi dire viva? Perché devi i costi del lavoro sono troppo alti in Italia. Che tifo devi fare? Cosa ci guadagna a fare il tifo? Qual è il tifo? Ma non hai capito, lascia perdere. Allora, il mitologico Alessandro Di Battista, 5 Stelle, il belloccio del 5 Stelle, andrà pure dalla Bignardi venerdì, dice è una dittatura, lo avevamo intuito, ora ne abbiamo la certezza, invito tutti i cittadini alla calma, l'unica battaglia che dobbiamo combattere è informare chi non sa o ancora rifiuta la verità. Solo la non violenza e la partecipazione politica ci salverà da questa dittatura. Ora voglio dire, va benissimo tutto, la tagliola inopportuna, ma di quale dittatura si sta parlando? Cioè è stato approvato un provvedimento a maggioranza, ma di quale dittatura parliamo? Dittatura parlamentare, ma chi di che cioè nelle democrazie normali funziona la maggioranza, cioè, e l'opposizione. Voi fate l'opposizione, non è che l'opposizione cioè, ma se poi uno... scusami, cos'è questo appello? La cosa grave, mantenete, cos'è che hai letto prima? Mantenere la gente. Mantenete la calma, mantenete la calma. La gente c'ha altro a cui pensare. No, ma è un linguaggio di guerra. Lo capisci o no che hai mandato in Parlamento gente che ha un linguaggio da guerra? Ma stai zitto, il questore D'Ambroso ha picchiato la collega. Il questore D'Ambroso ha picchiato la collega Loredana Lupo, sostiene Di Battista. Si vergogni e quel che resta della presidenza della Camera prenda provvedimenti. Allora, cercheremo di chiarire questa cosa. D'Ambroso chiediamo sarebbe qualcuno, l'ex magistrato? Sì, sì. Il nostro amico D'Ambroso, sì, l'ex pare magistrato. Che abbia dato uno schiaffo a Loredana Lupo. Ma come Lupo, fa? Che... Ma un signore così educato e per dicono bene, di sì, Marco D'Ambroso. Da Monza, Marco. Marco! Cruciani? Dimmi. Niente, ho chiamato per dirti che sei semplicemente un buffone. Sono un buffone, benissimo. Non ti dico buonasera perché sei solo capace di dire dica. Amico mio, sono un maleducato, un buffone, benissimo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Poi ti senti in una botte di ferro. Sì, aspetta un attimo. Mi sento in una botte di ferro. Pronto? D'Ambroso? Chi si parla? Ciao, sono Cruciani, come stai? E Parenzo, ciao. Ah, ciao. Senti, sì, ma che è successo questa qua? È vero che hai dato uno schiaffo a questa qua dei 5 Stelle, come dicono dalle agenzie? Ma proprio adesso stavo appunto, le stesse agenzie hanno chiesto la mia costruzione. In realtà dimmi, dici un po'. Abbiamo dovuto soltanto bloccare un'aggressione fisica, letteralmente fisica, alla presidente Boldrini. Io ero lì con gli assistenti, con le persone della sicurezza che ho il compito di coordinare, e insieme a loro abbiamo cercato di fare questo cordone, che evitasse che le persone con forte violenza arrivassero fino alla presidenza. Scusa, quindi ma può essere partita una manata oppure no? Ma assolutamente non mi appartiene proprio come. Ma infatti. No, ma per sbaglio. Non mi è mai appartenuto e non mi appartiene. Ma nemmeno per sbaglio, voltandoti, eccetera. Escludo letteralmente che io possa aver pensato lontanamente di dare una manata ad un deputato della Repubblica. Dunque, la Lupo, non devi chiedere scusa alla Lupo perché non è successo nulla? Assolutamente no, io non devo chiedere scusa a nessuno di quelli che hanno cercato di fare violenza fisica contro la terza istituzione della Camera e che io in una maniera del tutto oggettiva mi ritrovavo a dover in quel momento a coordinarne la sicurezza in quel momento. La cosa è questa, cioè qualcuno ha tentato di aggredire la Boldrini, questo stai dicendo? Cioè, hanno cercato di raggiungere con la violenza che hanno utilizzato nell'occupazione della Camera, di raggiungere la presidenza della Camera, la Camera che è posta sul banco più in alto. Ma erano minacciosi? Insieme agli altri assistenti che erano lì insieme, che erano coordinati dall'ufficio questore, sono state bloccate con la nostra sola presenza fisica più di una persona. Però Stefano, ti dico una cosa, qualcuno dice il questore D'Ambroso ha picchiato la collega Loredana Lupo, e per esempio Di Battista di 5 Stelle, c'è questa versione che circola. Io rispetto la ricostruzione che fanno tutti, l'ho sempre fatto anche quando facevo il magistrato, mi attribuivano cose che non avevo fatto, quindi rispetto assolutamente la ricostruzione degli atti che chiaramente devono essere provate, se no poi ci sono classici reati di calunnia, di ricostruzione falsa dei fatti. Cioè se qualcuno dice che tu hai dato uno schiaffo, hai picchiato qualcuno, lo porto in tribunale? No, non lo porto in nessun tribunale, fortunatamente. Qui siamo in un paese dove speriamo di far andare avanti questo senso, ma sicuramente se pensiamo ai tribunali. Va bene, grazie Stefano, a presto. No, ciao. Grazie a te, grazie. Ciao, a te. Ciao, ciao. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. C'è un pensiero da dedicare agli amici dell'Electrolux, Parenzo? Posso dedicare un pensiero agli amici dell'Electrolux? Fai quel che ti pare, offendili ancora. No, offendili, ma un pensiero gentile, un pensiero gentile e spiritoso. Offendili ancora, già pensiero... è gente che ha paura del proprio futuro. Un pensiero spiritoso, dai, un pensiero spiritoso. No, non c'è dai. Da ridere, quando uno perde il lavoro pensiero... non c'è da ridere. Ma non c'è non nessun lavoro perso qua, non c'è nessun lavoro perso ancora. Sono persone che non riusciranno più a pagare l'affitto, lo capisci? Ti entra in testa, no? Però puoi anche sorridere di questo. Se poi questi si incazzano e vengono sotto la radio e aspettano che tu esca alle 9 e ti fischiano, non ti devi lamentare però. Ma vai a fare in culo, veramente. No. Cioè. Certo. Aspetta. No, perché se io fossi uno di questi qui, verrei lì a dirtelo con dei cartelli. Posso fare una dedica? Una dedica a quelli dell'Electrolux, dai. La posso fare o no? Ma io sono assolutamente contrario, perché io ho rispetto di queste persone che stanno vivendo un dramma e credo che non si possa scherzare. Se tu ritieni che si possa scherzare, io ritengo che si possa, te ne assumi la responsabilità e non ti arrabbi se poi chiamano o vengono con dei cartelli a darti il saluto. Vabbè, faccio questa dedica, dai. Lavoratori, Beh, che bisogno c'era di offendere migliaia di persone? No, ma era per riprendere, per riprendere. Tu offendi migliaia di persone. Ma che offendere? Ma è molto grave, davvero, è molto grave. Ma è per riprendere una mitica gag. Ma per riprendere niente, non è che si può sempre ridere di fronte a gente che sta perdendo il lavoro. Per loro 130 euro sono la vita, lo capisci? Aspetta. Per loro è la vita. Aspetta. È la vita 130 euro. Aspetta, aspetta un attimo. Lavoratori della banda! Ma che ha sta macchina, ma che c'ha? Ti fermo! Scendi, apri il colpo, ma fai qualche cosa, come no? Cosa vuoi che faccia? Ma come? Oh! Dai, ciao! Vengono! Stavamo scherzando! Dai, che scappa! Dai, ciao! Dai, da dove? Beh, cosa ti auguri, naturalmente? No, che ti si rompa la macchina anche a te. Che ti si rompa la macchina anche a te quando esci col tuo super SUV dalla sede del Sole 24 ore. Ma quale super SUV? E gli hai fatto lavoratori. E io mi auguro che ti si rompa la macchina, così questi qui alzano i loro cartelli pacifici. Cartelli pacifici per dirti, caro il mio Cruciani, che per loro 130 euro in meno sono la vita. Per loro, la vita. Ma dai, ma dai. Vincenzo da Bari, anzi c'è ancora Marco, Marco da Monza, dai Marco, che vuoi, dai. Sì, Cruciani, veramente assurdo, siamo sì. All'asilo Mariuccia, sì. Tu sei completamente sì. Fuori, non sì. Hai capito proprio no. Niente. Sì, tu che ti sei fatto stasera? Perché non hai il coraggio di chiamare l'Armellini, per esempio? Ah, l'Armellini, magari. Perché? Me lo perché dai tu il numero? Me lo dai il numero? Ma voi avete tutto, penso che abbiate pure il numero dell'Armellini. Ma non ce l'abbiamo, sennò altrimenti l'avremmo chiamata. No, va bene. Comunque ti accanisci con le persone che perdono il lavoro. Ma che mi accanisco? Il tappeto rosso alle persone che invece sono sì. Da sputargli addosso. Sì, io, per esempio? Questa è la verità dei fatti. Un altro mi dice, ma che pezzo di merda che sei, Cruciani. Un altro, Maurizio Belluomini, uno che ogni tanto mi scrive delle cose tremende. Continua. Perché non arrivi a capire cose elementari. Cose elementari, sì. Non arrivi a capire che la gente che, come pensi tu, perde il lavoro, è come se avesse perso un terno al lotto. Il lavoro è dignità. C'è gente che ha famiglie, c'è gente che ha figli che vanno dici a scuola. Dici delle banalità sconcertanti. Dici delle banalità inaudite, come pare, peggio di Parenzo sei. Peggio scusa, di Parenzo. Uno per no, uno che no, guadagna no, 1200 euro. Perde Parenzo 130. Tante volte dice stronzate, ma è molto più dignitoso di te perché è molto più educato di te. Sì. Io non so a te chi ti ha cresciuto, ma sicuramente sei un grosso maleducato. Vabbè, hai fatto sta uscita geniale. Questo dai. È ovvio, si hai sa, fatto, non è che me lo invento. Hai fatto sta uscita geniale. Però dai. Tu non riesci a capire una cosa elementare, che la sì. Gente che perde il lavoro o arriva ad avere un reddito minore rispetto sì. A quello che dai, ha. Dai, continua con le solite banalità. Si mandano in crisi le famiglie, perché c'è gente che ha figli da mandare a scuola, c'è gente che ha anziani da accudire, e tu non puoi spostarli sì. Dalla propria vita sì. E buttarli a lavorare a Londra piuttosto che in Germania. L'hai detta la banalità della serata? Tu fai di tutto un'erba un fascio. Per questo non hai capito niente. Bene, Vincenzo Labari. Quando si tratta di ragazzi sì. Neolaureati che possono cambiare la loro vita, andare a passeggiare per il mondo. Qua si tratta di persone che hanno fatto una scelta di vita. Vabbè. E devono Marco, hai qualcosa da aggiungere? No, io questo volevo dirti, sei un grosso maleducato. Bene. Tanti saluti e grazie. Vabbè, arrivederci. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Vabbè, io stasera cucino i pisellini freschi verdi col becco. Oh, peccato. Grazie, grazie, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi sono. Quant'è che abbiamo fatto l'interruzione adesso? 5-6 minuti, quanto abbiamo fatto? Follia pura. Allora facciamo una cosa per dire come ha fatto quella volta Ferrara per le strade? Ah, tu dici una battaglia per l'abolizione. Le battaglie non si devono annunciare, si devono fare e basta, senza annunci. Tra CR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Bravo, chi è questo qua? Questa è una brava persona, questo qua. Boh, un ascoltatore. Una bravissima persona. Bravi quelli alla regia, no? Valeria che me l'ha messo, molto bravo. Io mi sono incazzato con lei perché non mi ha subito dato la linea. Poi mi ha spiegato che c'erano tutte delle procedure. Vabbè, che ce frega. Maurizio da Oristano, dai. Anzi, chi c'era? Vincenzo da Bari. 7 minuti e 26 di interruzione. Dai, vado al manicomio. Vincenzo, sì, fino a prova contraria, ciao, sì. Ciao, ciao, Cruciani, ciao. Innanzitutto, rimane il giallo. Lo schiaffo è stato dato oppure no a quella dei 5 Stelle da parte di D'Ambrosio? Lui nega. Prima ai nostri microfoni ha detto che in realtà hanno protetto la Boldrini da un'aggressione dei 5 Stelle, ma non è scappata nessuna manata, nessuno schiaffo, eccetera. Questi denunciano addirittura che è stata picchiata da D'Ambrosio, che però è una persona mite. Vabbè. Allora, chi c'è? Mi senti? Sì, ti sento, dai, dai. Ma non lo so, dello schiaffo secondo te è importante, è una cazzata, cioè, voglio dire, io sono simpatizzante, non sono un fan, sono un simpatizzante, mi piace 5 Stelle, ma soprattutto per quello che sta alla base, cioè la partecipazione, e questa è una democrazia, però se ti permettono di partecipare in una maniera, diciamo, non completa, ma discreta, a quello che è la vita di questa democrazia, sì. Secondo me è una cosa estremamente positiva. Vabbè, allora, a parte questo pippone, a parte questo pippone che hai fatto, poi... tu dici, tu rifletti se è vero. Ma non so cosa hai detto, la partecipazione, tutte stronzate, la partecipazione, queste cose qua, la Perché, scusami, perché non è perché è una stronzata la partecipazione? Senti, in America, voglio in altri posti, vota, abbiamo... lo sai quante persone hanno votato per il sindaco di New York? Sai quanti sono andati a votare? E non è che nessuno, il 26%, nessuno ha fatto questioni, ha sollevato problemi sulla partecipazione, sulle cose. Il 26%, per il sindaco di New York, non okay, per ma di che parliamo ancora, la partecipazione, le cose. Basta con queste cose, basta. Cita anche l'America. Hai detto che hai votato il 5 Stelle. Ma cosa c'entra questo? Ma il mio voto inizia e finisce nel momento in cui entro nell'urna. Non è che mi timbra per tutta la vita, come pensate voi. Assolutamente, ma pure a me è la stessa cosa. Io ti ho detto che sono un fan, non sono un fissato. Cioè, io leggo Repubblica. Vabbè, allora che vuoi? Che cosa vuoi dire? Non ho capito cosa vuoi dire. Panorama, ma uno non ha idea se la fa. Cioè, prende il meglio di quello che eventualmente il 5 Stelle può dare. Chiaramente non è tutto così. Cioè, voglio dire, non puoi negare che ci sono delle cose estremamente positive. Che ma chi l'ha negato? La questione dei finanziamenti pubblici, eccetera. Quindi, e allora? Allora parliamo, che vuoi parlare? Dell'impeachment sul capo dello Stato. L'esempio, voglio dire, il capo dello Stato è l'esempio calzante attuale del compromesso che sta in Italia. Ed è vero, è tutto un compromesso. Sì, ma sarà anche un compromesso. Bene, ma che cazzo c'entra l'impeachment, la messa in stato d'accusa? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Senti, io la vedo così, in questo caso sono d'accordo con quelli dei 5 Stelle, ma non perché sono io non voto da un bordello. Allora, di anni, Giulia Sarti, Giulia, un attimo solo, Vincenzo, un attimo solo, andiamo alle cose serie. Giulia Sarti, una deputata dei 5 Stelle, dice: "Nella mia vita ho picchiato tante donne, non sei la prima." Avrebbe detto D'Ambrosio a Loredana Lupo del Movimento 5 Stelle. Ora io, ragazzi miei, cosa vi devo dire? Tocca richiamare D'Ambrosio per questo? Non lo so, cioè, conoscendolo è che non lo so, vuol poi dire, tutto, sì, è, certo, possibile, certo, tutto, certo, è possibile, però poi, conoscendolo, anche tu lo conosci, sei stato a cena con lui tante volte, ti sembra uno che non lo so francamente, non lo so, perché le persone nei momenti di ira, nei momenti di incazzatura, io non si metto la mano sul fuoco nemmeno per te, figuriamoci, anzi. Sì. Riccardo da Udine, sei pronto? Mi sente, Cruciani? Sì, dica. Ma innanzitutto vorrei sapere di cosa vi fate voi due, perché stasera veramente siete mitici. E che abbiamo fatto? Io di niente. Eh beh, su quella dei lavoratori dell'Electrolux mi è piaciuta veramente. Ah, ti è piaciuto Sordi, Ti è piaciuto Sordi. Certo. Beh, ma è normale. Beh, no, ma, certo. ma non fa ridere invece, certo, per niente. Ma questo Riccardo da Udine, se lo licenziano, se nessuno scende in piazza, perché è un piccolo camionista cosa fai, come tutti gli altri. Sì. Ma cosa fai, il difensorino patetico? Digli all'apparenzo, Riccardo. Cruciani. Dimmi. Ascolta, guarda che io, Parenzo, è dal 2011 che mi hanno tirato via 230 euro al mese. Mi dispiace. Infatti. Ma non ti dispiace, nessuno scende in piazza, no? Nessuno fa casino. Ma cosa c'entra? Perché i camionisti non se ne fila nessuno. Ma non è vero. Indipendibili. Dai, su. Per me un lavoratore che guadagna 1200 e poi gli tolgono 130 euro, va difeso. Sei sceso a 1200. Quel cretino deve baciarci il culo, perché noi ci rompiamo i coglioni tutta la notte per farvi avere i supermercati pieni. Ma della quello merda è chiamato, ma quello è chiamato, è un cretino quello che ha chiamato. Aspetta un attimo, Riccardo, aspetta un secondo, aspetta. Vogliamo sapere quello che succede in Abruzzo noi, eh? Abbiamo interpellato Don Fulvio Di Fulvio, uno degli esorcisti più importanti d'Italia. Buonasera. Buonasera, non siamo i titoli, per carità. Come sa? Come sta? Quanti come sta? Fulvio sono? Voi? Non c'è male, non quanti c'è male. Quanti Fulvio sono? No, sono un solo Fulvio, Fulvio Di Fulvio. Ah, è Don Fulvio Di Fulvio. Beh, sì. Ah, sono due Fulvio. Ero anche Fulvio da giovane. Senta un attimo, Don Fulvio. Ma è esorcista, ma... veramente? È esorcista, certo, perché qual è il problema? Fantastico. Scusi un attimo, ma in questo momento, con tutto questo che sta succedendo in Abruzzo, la giunta regionale, lei leggerà i giornali, nonostante faccia, diciamo, il prete e anche l'esorcista, ma non è che c'è il diavolo lì che ci sta mettendo lo zampino lì in Abruzzo? Che dice lei? Il diavolo lo zampino mette dappertutto. Ah, lei dice, eh? Mette dappertutto, sì, cioè ogni volta che c'è la Bibbia che si è intrufolata nella vita dell'uomo, sì, per e cui... quindi, e quindi? Cioè, il diavolo può operare però direttamente o indirettamente. Opera direttamente quando è causa, sì, immediata di certi comportamenti, indirettamente quando si avvale la collaborazione umana, sì. No, ma voglio dire, tutto quello che sta succedendo adesso nella giunta regionale, la corruzione, le accuse, le inchieste, eccetera, secondo lei, beh, il diavolo ci ha messo del suo, no? Ma non lo so se è il diavolo o lo Spirito Santo, perché certe cose sono dappertutto. Certi paesi si sanno, in altri no. Alcune cose vengono scoperte, tante, e il grosso è ancora sommerso, non è Abruzzo, dappertutto. Ma senta una cosa, il fatto che ci sa che ci sono tutti questi episodi anche di sesso, no? Ha visto questo contratto pazzesco che è stato fatto siglare una segretaria da parte di un assessore, adesso anche il presidente è invischiato in una storia. Come la interpreta lei, che è un esorcista? Guardi, cioè l'uomo è malato da questo punto di vista, anche là c'è malato, la corruzione, le ripeto, non sta in Abruzzo, sta dappertutto. Io conosco di queste situazioni, ho girato il mondo, sì, e giro in continuazione, e queste situazioni le vedo dappertutto. Qui in Abruzzo, sì, ci sono dei giudici che si sono dati da fare per mettere sotto tiro determinati personaggi, sì, e dunque? Altre parti queste cose vengono fatte passare sotto silenzio. Ah, lei dice. Le situazioni ci sono dappertutto, non sono soltanto qui. Ma lei è vero che questi sono i giorni di Satana? La regione di Satana? No, questi sono i giorni di Satana. Cosa vuol dire i giorni? Ma guardi, io appunto questi giorni non me ne ero mai accorto prima. Non me ne ero mai accorto. No, ma il primo, sono il primo comune che dobbiamo sfatare. Ci sono delle persone che legano certe attività a determinati giorni particolari. No, il dell'anno. Primo febbraio, che giorno è? Primo febbraio, per me è sempre stato un giorno di Dio. C'è chi, ma anche il giorno di Natale c'è chi lo usa per profanare. Qualunque cosa può essere buono, sì, per comportarsi e andare controcorrente. Quindi queste cose vanno buttate lì, vanno sfatate. Ogni giorno è giorno di Dio. Il martedì è giorno di Dio, il venerdì, sì, è giorno di Dio. Senta, e ma quante si cammina in nome di Dio, non si ha paura né di un giorno né dell'altro. Non c'è dubbio. Scusi un attimo, ma quante persone vengono da lei a farsi esorcizzare? Ma sono parecchie, per la verità. Ma però dobbiamo. Aspetti che mi chiamano, aspetti un attimo in diretta. Aspetti, ecco, che mi chiamano. Telefonate in diretta, Parenzo, vediamo, scopriamo le carte. Aspetta. Sei tu, il mio spirito. Sì, sì. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Pronto? Ma devi mettere viva voce, però. Sì, sono Cruciani, chi è? Ha sbagliato, come ha sbagliato? Sono in diretta, amico mio, ha sbagliato questo qua. Quante persone vengono da lei a farsi esorcizzare, Fulvio? Inquietante. Guardi, le persone che chiedono, queste sono tante, ma non tutte hanno bisogno di esorcismo, perché l'esorcismo non è la panacea per ogni disturbo, che c'è chi c'ha il tumore, chi non riesce a trovare lavoro, chi non riesce nell'amore. Chiunque che abbia qualche difficoltà pensa che sia. Ma quanti sono veramente presi dal diavolo? Quanti sono. dal diavolo. Sì, ma quando guardi, la domanda la devo precisare. La domanda questa presenza di cui si parla del diavolo è differenziata. Se una persona si dà al male, al peccato, si consegna a Satana. Infatti, la maggior parte di coloro che cadono sotto l'influenza di Abolga sono persone che accetto come comportamento della vita una vita dissoluta, disonesta e così via. Vabbè, e senza loro coscienze si ritrovano invischiati. Cioè, per esempio, gli omosessuali sono gente che ha il diavolo in corpo? Ma non necessariamente. Però è possibile. Tendenzialmente. Ma tutto è possibile. Vabbè, tutto è possibile. Ci sono riguardi delle operazioni sataniche, prendono soprattutto delle sfere della vita dell'uomo. Per esempio? Affetti. Sì. Lavoro. Carriera. Spiritualità. Famiglia. E che succede? Perché prendono queste sfere? Guarda, le faccio un esempio così meglio. Un signore ha costruito un capannone, una cooperativa, ha dovuto rilevare le quote dei vicini, dei soci, e contava su una collaborazione, un contributo della regione che gli è stato assegnato. Quel contributo non l'ha mai preso, prima che fu arrestata la giunta regionale. E allora? Fu arrestata la giunta regionale nel 92. Sì. Poi morì l'impiegato che era detto, poi questo, un altro impiegato passa subito, lui è uscito da un'altra porta. 15 eventi successivi l'uno all'altro, e lui questo contributo non l'ha mai ricevuto. Come se ci fosse stata un'intelligenza a dirigere gli eventi perché questo non avvenisse mai. Ecco Satana. Spiego. Senta, come fa lei quando deve esorcizzare una persona? Mi faccia la formula, se può. No, non è questione di formula. Mettere ordine nella sua vita. Mettere ordine? Ma questa è una cosa più da psicologo, però, che da esorcista. No. Ordine, quasi dice ordine. Il Vangelo parla di questo. L'ordine nella Gesù vita. Gesù esorcizzava in qualche occasione. Ma lei non usa una formula. No, non è questione di formula, è questione. Innanzitutto identificare quello che avviene. Perché se c'è una volta una persona era malata, non camminava perché aveva assistito a riti esoterici e compagnia bella, era confuso di mente, camminava male, eccetera. Quando è stata esorcizzata, si è liberata la mente, oggi dopo 33 anni cammina e saltella tranquillamente. Finché per anni sia stato in terapia ortopedica, ma si può intervenire, una presenza evidente. Altre volte invece il lavoro di Satana non è diretto, allora se ha bisogno magari di far ordine alla vita, per esempio buttare via i peccati, buttare via la disonestà, l'infedeltà, la corruzione. Ma ho capito, ma questo qua non è che ci vuole l'esorcista qui ci vuole... Non ci vuole l'esorcista, infatti vi ho detto che l'esorcismo non è la panacea di tutti i rimedi. Per ogni... Vabbè, Don Fulvio, la ringrazio, a presto. Prego. Saluto. Claudio, Milano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera. Dimmi, caro, dimmi. Senti Cruciani, io ti do il tuo, io sono una persona che apprezza l'onestà intellettuale e tu devo dire che ce ne hai da vendere. Allora? Io credo che sia opportuno, proprio per rispetto alla tua onestà intellettuale, che tu in questo momento in radio, davanti a tutti gli ascoltatori, in particolare a quelli dell'Electrolux, dicessi che hai il coraggio di andare domani in mezzo a loro a ripetere le stesse cose che hai detto stasera. Ma tutta la vita, ma solo che non ci posso andare perché io faccio la radio da qua, non è che la faccio da là. No. Vorrei proprio sentirti. Ma qual è il problema? Scusa, qual è il problema? Ad andare là in mezzo a fargli una bella pernacchia davanti alla signora che piange per i figli. Ma quella era una cosa che ha fatto sordi in un film. Fatta oggi è offensiva. Ascolta, guarda. Allora, mo te la rimetto pure, lo conosco benissimo. Ma non fai un dispetto a me, fai banchi di rispetto a loro, non a me. Cruciani, te, nascosto dietro il tuo microfono, fai il signore, d'accordo? Ma sono convinto che se te domani vai lì in mezzo, te stai zitto. E questa è una grande verità. Ma stai zitto tu, Cruciani, io non sto mai zitto, capito? Fenomeno. Ciao amico, ti rimetto rimetto la roba di oggi. Lavoratori! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non vi abbandonerò mai. Radio 24. La passione si sente.